Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dalle pagine del Corriere, Pierluigi Battista si interroga sulla credibilità di una protesta scolastica che ha per portavoce liceali ultra trentenni e universitari fuori corso da una vita. Un plauso speciale agli studenti di Bologna, che durante un corteo hanno rovesciato sul povero Beppe Grillo la legge del contrappasso, applicando la spietata tecnica del vaffa al suo inventore, che credeva di esserne immune, per grazia ricevuta. Lo hanno bollato come un intruso, anagraficamente incompatibile. Non si sono fidati di chi vuole parlare e arringare in loro nome. Ora però facciano in modo che il loro esempio sia virtuosamente contagioso. Preservino la loro identità generazionale. Facciano argine contro l'irruzione dei protagonisti di stagioni passate che vogliono calcare in eterno il centro della scena. Vecchi, no grazie. Disertino l'ennesima performance di Dario Fo alla Statale di Milano. Sempre la stessa da decenni, sempre desolatamente uguale, sempre scandita sugli identici slogan che si trascinano stancamente da chissà quante ere politico-geologiche. Si interroghino allarmati su un particolare che dovrebbe suscitare una sacrosanta collera. Due delle persone fermate dopo gli scontri di Piazza Navona hanno rispettivamente 33 e 35 anni. Che ci stavano a fare in una manifestazione di liceali? La prossima volta urge un trattamento Grillo. Meglio accompagnare gentilmente gli adulti smaniosi di scontri, ispirati al buon tempo andato, ai margini della manifestazione, evitare mescolanze, ibridi intrugli generazionali, contaminazioni con un mondo adulto che non merita ascolto e addirittura innaturali alleanze. Riflettiamo sull'effetto che fa assistere allo spettacolo dei portavoce degli studenti, chi li ha nominati, eletti, designati, incaricati, che hanno ovunque superato felicemente la trentina. Uno, molto filo movimento, viene invitato a un numero incalcolabile di trasmissioni televisive e a sentirlo parlare si sentono risuonare le usanze e il lessico di un funzionario di un qualunque partito, nemmeno della Seconda, ma della Prima Repubblica. L'altro, rappresentante di Forza Italia che rivendica il diritto degli studenti di fare lezione malgrado il movimento, i 30 anni li dimostra tutti, anche se si qualifica come laureando. Ma che significa esattamente laureando? Qual è la durata dell'etichetta laureando? E a nome di chi parla l'eterno laureando? Attenzione ai rettori, ai presidi di facoltà, ai docenti, che dall'alto delle loro cattedre trovano un attestato di giovanilismo, proclamando solidarietà sospette e inattese convergenze. Attenzione ai genitori che si intrufolano nelle manifestazioni e improvvisamente si riscoprono dolenti vittime di una scuola che non funziona. Dove erano fino a un minuto prima? Attenzione ai cronisti, che con il pretesto dei vostri cortei riscrivono lo stesso articolo da 40 anni. Attenzione ai nostalgici che si camuffano da progressisti, agli spettatori che accampano un ruolo da protagonisti. Se proprio dovete sbagliare, almeno sbagliate da soli. Se dite la cosa giusta, almeno riuscite a farlo per vostro esclusivo merito. E allestite posti di blocco all'ingresso delle vostre manifestazioni. Controllate passaporti, carte di identità e patenti. Quelli sopra i 30 anni siano cortesemente messi ai margini. Sono infiltrati eccessivamente fuori corso. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Trattamento Grillo per studenti over 30, dal Corriere della Sera del 3 novembre. Tra censure preventive e negazione della propria identità, il servilismo degli inglesi nei confronti dell'Islam sembra ormai un fenomeno inarrestabile. L'ultima trovata arriva da Oxford, che per quest'anno ha pensato bene di cancellare il Natale. È un appuntamento tradizionale, celebrato per lo più con riti laici, almeno in questo paese. Shopping, un po' meno quest'anno a causa di recessione e stretta creditizia, cenone in famiglia, regali ai bambini. ma il Natale è anche la festività religiosa più importante del calendario cristiano e ciò suscita le apprensioni di chi vuole riconoscere la miscela multietnica e multiconfessionale della Gran Bretagna odierna. Così quest'anno i leader del Consiglio Municipale di Oxford, la piccola città a nord-ovest di Londra, sede dell'università più prestigiosa d'Europa, hanno deciso di cancellare la parola Christmas. Al suo posto, tutti gli eventi del 25 dicembre e dei giorni successivi saranno denominati Winter Light Festival, festività della luce invernale. L'idea è stata avanzata per prima da un'associazione di beneficenza locale, la Oxford Inspires, e poi accolta dalle autorità locali. Spiega Tay Williams, portavoce dell'organizzazione. L'intero periodo comprenderà attività di ogni genere per la durata di 2 mesi. In tale ambito ci saranno anche celebrazioni del Natale, come i cori di canzoni natalizie. Conferma il vice sindaco Ed Turner. Faremo lo stesso un grande albero di Natale nella piazza principale della città, ma lo chiameremo in modo diverso. Non è la prima volta che capita. In omaggio al politicamente corretto e al rispetto delle minoranze, negli anni scorsi altre città britanniche hanno deciso di non chiamare più Natale il Natale. Il fatto che a imboccare quella strada sia ora la Cittadella del Sapere, un luogo celebre in tutto il mondo per la sua università, rende ancora più eclatante la scelta. La novità è che a protestare con voce più forte di tutti ora non sono la Chiesa Anglicana o la Comunità Cristiana di Oxford, che ha comunque definito l'iniziativa scandalosa, bensì i leader di altre religioni. Dice Sabir Hussein Mirza, presidente del Consiglio Musulmano di Oxford, «Il Natale è la data del calendario attesa da tutti, non solo i cristiani, ma anche i fedeli islamici e quelli di altre confessioni lo aspettano con trepidazione. Sono arrabbiato e molto deluso per questa iniziativa delle autorità locali. Il Natale è una festa speciale e non può essere cancellato con un tratto di penna. È legittimo che i cristiani si sentano offesi, ma io credo che il 99% della gente, dunque anche molti non cristiani, siano contro una decisione simile. Il Natale fa parte dell'essere britannici. Dello stesso parere è il rabbino Eli Bracknell, direttore del Jewish Educational Center, il centro di studi ebraici di Oxford. È importante mantenere un tradizionale Natale britannico. Qualsiasi iniziativa che diluisce la cultura tradizionale e la cristianità del Regno Unito non è positiva per l'identità britannica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Franceschini, Oxford cancella il Natale, troppo cristiano e scorretto, da Repubblica del 3 novembre. Letture di Radio 24. Le persone di successo, all'apice della carriera, sono vulnerabili a disturbi difficili da diagnosticare. Bisogna imparare a coglierne subito i sintomi, scrivono George Parsons e Richard Pascale sulle pagine della rivista Harvard Business Review. L'immagine romantica delle superstar vede nel loro successo una felice combinazione di talenti naturali, ambizione, circostanze e tempismo, tutti fattori che favoriscono un'ascesa incontrastata ai vertici della gerarchia. Ma anche per gli individui più dotati, che hanno goduto di una serie fortuita di sviluppi di carriera, il percorso che porta al vertice non è privo di ostacoli. Mentre imparano ad assumere il controllo di un nuovo incarico, possono essere colpiti da un disturbo difficile da diagnosticare, la cui causa, paradossalmente, è proprio il successo. Nel periodo che intercorre tra il superamento delle sfide poste dall'incarico attuale e l'assunzione dell'incarico successivo, con i suoi nuovi requisiti di crescita, le superstar possono essere particolarmente vulnerabili. Incapaci di navigare sotto costa, perdono l'orientamento e mettono in discussione la propria determinazione. La confusione può degenerare in conflitti interiori. Se trascurata, questa sindrome del successo può far deragliare una promettente carriera e privare l'azienda del talento su cui ha scommesso il proprio futuro. Sono molti i modi in cui un individuo può perdere punti all'interno della propria azienda. Per esclusione, quando le differenze di stile provocano un conflitto con la personalità di un superiore o la cultura dell'azienda. Per esaurimento, quando sopravviene una pericolosa combinazione di sovraccarico di lavoro, incapacità di cogliere l'impatto positivo delle proprie fatiche e la mancata realizzazione delle proprie aspettative di carriera. Per problemi psicologici, a causa di cambiamenti psicologici o biologici che scatenano una crisi di mezza età, o per inadeguatezza, a causa di una manifesta incompatibilità tra la capacità dell'individuo e quelle richieste dalla posizione ricoperta. La sindrome del successo è diversa. Colpisce le superstar più ambiziose che vivono di sfide. Se ne trovano in abbondanza nelle aziende dai ritmi più frenetici, nelle principali banche di investimento e società di consulenza, nelle società di nuova costituzione, nelle società produttrici di semiconduttori, computer e di sviluppo software e nelle unità d'élite delle società multiprodotto. Questi individui super impegnati gioiscono della vittoria nel padroneggiare nuove competenze, nell'acquistare nuove conoscenze e nel superare i precedenti standard di eccellenza. Sono drogati della propria adrenalina. Ma la spinta a superare i propri limiti viene meno allorché il nuovo territorio è stato conquistato. Un'identità costruita sugli effetti galvanizzanti dell'accettare e del superare le sfide più scoraggianti perde ogni presa non appena si intravede la sommità della curva di apprendimento. Questi individui non sanno navigare in acque tranquille. Diversamente da coloro che perdono la stima della propria azienda, gli individui che vivono le fasi iniziali della sindrome del successo non sono stati né esclusi né emarginati. Anzi, solitamente fanno parte di quella cerchia ristretta che detiene il potere. È difficile che vadano incontro a un esaurimento. Sono consapevoli dell'impatto del proprio lavoro e sono ben contenti di far fronte a grandi richieste. Anzi, ne hanno bisogno per continuare a produrre adrenalina. La miglior difesa è la tempestività. Le imprese, ma soprattutto le superstar stesse, devono essere in grado di prevedere il sopraggiungere del disorientamento che colpisce quando si giunge all'apice di un incarico. Sta all'individuo la responsabilità di agire di conseguenza, ma superiori ai colleghi possono certamente offrire un valido aiuto. Dopo aver riconosciuto i sintomi della sindrome del successo, il passo successivo consiste nel capire le cause del disorientamento. Queste sono due: una perdita di efficacia della propria formula vincente e la mancanza di un legame tra la carriera e il grande significato della vita. La formula vincente è il modo in cui ciascun individuo, a suo modo, fa la differenza. Le formule vincenti hanno due componenti essenziali: ciò a cui si presta attenzione e il modo in cui si interviene nelle situazioni. Con un po' di sincera introspezione, la maggior parte di noi è in grado di descrivere la propria formula vincente e descrivere dettagliatamente le specifiche competenze sulle quali si fonda. Mentre l'efficacia della formula comincia a venire meno, spesso comincia a manifestarsi nella persona anche un profondo senso di insoddisfazione, la sensazione che il grande significato della vita sia andato in qualche modo perduto. Totalmente immerso nell'obiettivo di padroneggiare il proprio incarico, è facile che l'individuo ultra ambizioso perda di vista i propri valori e le proprie ambizioni fondamentali e il modo in cui la carriera si concili con altri obiettivi personali. Non appena però il lavoro smette di assorbire tutte le energie fisiche e mentali, tale questione viene prepotentemente alla ribalta, aumentando la confusione e rendendo ancor più difficile discernere il cammino migliore e, in particolare, la scelta migliore da compiere per il passo successivo. Nel corso della propria carriera, i leader devono apprendere a usare il proprio potere in modi diversi per ottenere i risultati desiderati. Spesso i giovani manager cercano di ottenere i risultati attraverso la propria autorità o le proprie conoscenze specialistiche. Progredendo nella carriera, tuttavia, la spinta all'esercizio del potere lascia il posto a un altro obiettivo: quello di mettere altri nella condizione di realizzare risultati straordinari. Di conseguenza, ad esempio, devono imparare a trovare il giusto equilibrio tra la supervisione e la libertà concessa ai propri sottoposti. Devono imparare a scegliere i membri di un team così che le forze di alcuni compensino le debolezze di altri, e devono imparare ad aiutare gli altri a trovare da soli le soluzioni ai problemi. Nella fase iniziale della propria carriera, i leader imparano ad affrontare e a gestire il conflitto anziché a evitarlo. Nonostante questo, considerano il conflitto il sintomo di un problema e cercano dunque di disinnescarlo rapidamente per minimizzare il suo impatto negativo. Col tempo, tuttavia, i leader imparano a usare il conflitto come uno strumento per raggiungere i propri fini. Nelle fasi iniziali della propria carriera, i leader devono imparare a contrastare la naturale tendenza a circondarsi di persone con un background e un approccio simile al proprio. Mettere insieme un team diversificato è molto importante, soprattutto quando i mercati o i clienti serviti dal team sono a loro volta diversificati. In una fase successiva, i leader devono imparare a pensare con astuzia politica e a tramare una sequenza di mosse per uscire dalle situazioni di impasse interpersonale o aziendale. La maggior parte dei manager esordienti tende a concentrarsi sul conseguimento di obiettivi immediati, Solitamente si tratta di specifici target di produzione, finanziari o di quota di mercato. Proseguendo nella carriera, tuttavia, i manager imparano a formulare strategie e visioni più ampie, ridefinendo, ad esempio, la natura del servizio al cliente o reinventando un prodotto che possa stabilire nuovi standard di performance. Il processo per riconoscere e affrontare la sindrome del successo può aiutare le persone ultra ambiziose a superare il disorientamento che può coglierle quando giungono in prossimità dell'apice di un incarico. Può dissipare la confusione e creare un nuovo contesto per una vita lavorativa equilibrata, stimolante e gratificante. Un adeguato lavoro di riflessione all'apice di un incarico permette di fare chiarezza. La bussola che guida questo lavoro di riflessione è un'indagine a quattro corsie. In primo luogo occorre capire la propria formula vincente, come si è posseduti da essa e non viceversa, e il ruolo fondamentale che svolge nel determinare un senso di spossatezza o una perdita di smalto. In secondo, occorre ritrovare i propri obiettivi primari. In terzo, ridefinire la propria occupazione presente o futura in modo da far combaciare le proprie aspirazioni interne con i requisiti esterni del proprio lavoro. E in quarto, creare un percorso di crescita per portare un nucleo di fondamentali competenze di leadership al livello successivo, adeguato alle esigenze della nuova situazione. Nulla di tutto ciò è facile, ma per gli individui di talento e le imprese che fanno affidamento su di loro, il vaccino della consapevolezza preventiva è molto più indicato che scommettere su una cura posteriori da somministrare a crisi avvenuta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La sindrome del successo di George Parsons e Richard Pascale, tratto dal CD-ROM 100 grandi idee di management. Il CD, allegato al Sole 24 Ore, contiene i 100 migliori articoli pubblicati nel periodo 2007-2008 nell'edizione italiana della rivista Harvard Business Review Italia.